scienziato, quello sporco liberale, anche lui tricolorato. Mi sono tolto il fazzoletto, quello bianco, verde e rosso, e dal collo mi sono messo solo quel era rosso. E mi hanno dato del cinese, mi hanno detto disfattista, ho risposto secco secco, ero e sono comunista. Ieri ho fatto la guerra contro il fascio e l'invasore, oggi lotto contro il padrone per la stessa libertà. E se vi va bene il liberale con Andreotti e il tricolore, io vi dico siete fottuti, vi siete fatti incastrare. E mi hanno dato del cinese, mi hanno detto disfattista, ho risposto secco secco, ero e sono comunista. E mi hanno dato del cinese, mi hanno detto disfattista, ho risposto secco secco, ero e sono comunista. Grazie.